Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il premio Nobel. Un riconoscimento magico, leggendario. Un tributo che premia l'eccellenza in diversi campi, come la scienza e l'arte. Oppure va a rendere giusto tributo a chi spende la propria vita per portare la pace nel mondo. Il premio Nobel si vince solo se si è esseri umani in grado di condurre un'esistenza nobile, ispirata dagli ideali più alti. È un sogno di civiltà. Sometimes without warning. A volte, senza avvertimenti, il futuro bussa alla nostra porta, con una visione preziosa e dolorosa di quello che potrebbe accadere. 119 anni fa, un ricco inventore lesse il suo necrologio, pubblicato erroneamente anni prima della sua morte. Credendo a torto che l'inventore fosse deceduto, un giornale pubblicò un duro giudizio sul lavoro della sua vita, etichettandolo ingenerosamente mercante di morte a causa della sua invenzione, la dinamite. Scosso da questa condanna, l'inventore fece la scelta decisa di servire la causa della pace. 7 anni dopo, Alfred Nobel creò questo premio e gli altri che portano il suo nome. Oslo, 10 dicembre 2007. Così inizia il discorso di ringraziamento del fresco vincitore del Nobel per la pace, un uomo politico americano che nel 2000 il sistema elettorale degli States ha frullato ed eliminato. Un uomo che però è animato da profondi ideali di pace, uguaglianza e umanità e che ha saputo reinventarsi, diventando uno dei più importanti attivisti per l'ambiente che il mondo conosca. Quest'uomo è Al Gore. Al Gore. Domani saranno trascorsi 7 anni da quando ho letto il mio necrologio politico in un giudizio che mi è sembrato duro e scorretto, se non prematuro. Tuttavia quel verdetto non voluto mi ha anche portato un dono prezioso e doloroso, un'opportunità di cercare strade nuove per servire i miei ideali. Inaspettatamente questa ricerca mi ha condotto qui. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo di un intreccio un po' particolare. I destini dei nostri protagonisti, questa volta, non cambiano repentinamente strada. In qualche modo si sommano, si amplificano. E l'ascesa che questi due uomini avevano in qualche modo già intrapreso singolarmente diventa più rapida, più specchiata. Da un lato, il premio Nobel per la pace 2007, Al Gore e le sue straordinarie battaglie. Dall'altra, un uomo che ha sposato una di queste battaglie e se ne è fatto trascinare, incassando anche il proprio tornaconto. Un uomo che ad Oslo, quel 10 dicembre, sta ascoltando l'amico Al Gore pronunciare l'acceptance speech, il discorso con il quale accetterà il Nobel. Capiremo dopo chi è. Ora andiamo a conoscere la personalità di Albert Arnold Gore Jr. Questa sera sono qui per riconoscere formalmente la vittoria elettorale di George W. Bush. È un momento difficile, ma è doveroso da parte mia augurare al futuro presidente di lavorare al meglio. Che Dio benedica lui e benedica l'America. Con queste parole, Al Gore riconosce ufficialmente la sua sconfitta nelle più controverse elezioni americane della storia. È l'episodio forse più noto, tristemente noto, della carriera politica di Al Gore. Un mese prima, infatti, il 7 novembre, gli americani vanno a votare. I voti di milioni di cittadini si sommano nel cervellotico sistema elettorale statunitense a quelli dei grandi elettori. Dalle prime proiezioni si capisce che le previsioni della vigilia sono corrette. È una lotta serratissima. Nello stato di New York il vincitore è Al Gore. Al Gore vince nel New Jersey. In Texas raccoglie il maggior numero di voti George Bush. In Tennessee ha vinto George Bush. L'esito finale emerge sul filo di lana. In particolare è lo stato della Florida a decidere la volata. Chi vince in Florida sarà presidente. La CNN, come spesso accade, è la prima a dare la notizia. Al Gore ha vinto in Florida. E quindi, possiamo dirlo, Al Gore è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Poco dopo, però, la Fox dà un annuncio completamente diverso. La Florida è andata a Bush. George W. Bush è il nuovo presidente degli Stati Uniti. Regna la confusione più totale. Per tutta la notte si rincorrono voci diverse. Alla fine, per un pugno di voti, il vincitore sembra essere Bush. Rimangono ombre e dubbi. I democratici di Gore chiedono il riconteggio delle schede. Il riconteggio parte, in effetti, ma la Corte Suprema, un mese dopo, stabilisce che non c'è tempo perché questo venga portato a termine. La vicenda viene archiviata. Non vengono fugati dubbi e perplessità. Gore, scottato, abbandona la politica. I due mandati di Bush hanno dovuto affrontare prove terribili. 11 settembre, le guerre in Afghanistan e in Iraq, la terribile crisi economica, a causa delle quali il mondo intero è cambiato. Rimarrà per sempre senza risposta un quesito. Che mondo avremmo avuto se avesse vinto Al Gore? Al Gore nasce a Washington il 31 marzo 1948. Poco più di 20 anni dopo si laurea brillantemente ad Harvard e parte per il Vietnam. Al è contrario alla guerra. Ha anche manifestato contro di esse. Quando va al fronte ci va come reporter. Documenta scrupolosamente quello che accade nel conflitto asiatico e matura una convinzione. La guerra è sempre, sempre negativa. Non esistono guerre giuste. Una visione radicale con cui dovrà successivamente scendere a compromessi. Io voglio vedere un mondo in cui regni la pace e gli Stati Uniti d'America siano promotori solo di valori come libertà e rispetto dei diritti umani. Al ritorno dal Vietnam, Al inizia la carriera politica. Vuole intervenire direttamente nella vita pubblica del suo paese. Vuole cambiare le cose. Si schiera con i democratici. Così, nel 1976, viene eletto al Congresso. Nel 1984 arriva l'elezione al Senato, a soli 36 anni. Nonostante la giovane età, Al si costruisce un consenso popolare enorme. Elegante, sicuro, affascinante. La parlata fluida ed efficace, Gore ha soli 39 anni nel 1988 è pronto a correre per la Casa Bianca. Avrei voluto essere presidente, ma sono anche un padre e sento pienamente la responsabilità verso i miei figli. Non mi sentirei in pace allontanandomi proprio ora dalla mia famiglia e dai miei figli per la campagna elettorale. Mi dispiace. Si candida alle primarie dei democratici, ma perde da Michael Dukakis. Inizia il rapporto controverso di Gore con la corsa alla Casa Bianca. Le nostre vite, la mia e di mia moglie, si sono consumate nello sforzo di restituire a nostro figlio la forza fisica e morale. Questo evento è stato un dramma che si può vedere anche come una sorta di seconda nascita, un momento che ha cambiato la mia vita. Con queste parole, Gore si ritira dalle presidenziali successive, quelle del 1992. Sarebbe stato sicuramente il candidato democratico, ma al momento di gettarsi nella campagna elettorale, suo figlio di soli 6 anni ha un terribile incidente. Viene investito da un'auto. Per stargli vicino, Al si ritira dalla corsa alla Casa Bianca. Alla Casa Bianca, comunque, Al Gore, nel 1992, ci arriva lo stesso. Bill Clinton lo sceglie come vicepresidente. Dal 1992 fino al 2000, Gore è il braccio destro del presidente americano. Secondo molti esperti di politica americana, è il vicepresidente più influente della storia statunitense degli ultimi anni, soprattutto in politica estera, dove colleziona successi importanti, come la riapertura dei negoziati di pace tra Israele e Palestina, e qualche sconfitta, come l'intervento militare in Serbia contro Slobodan Milosevic, un parziale tradimento dei suoi vecchi principi. Il decennio dei 90 che vede la coppia Clinton-Gore alla Casa Bianca è anche il decennio della rivoluzione di Internet, un fenomeno con cui tutti, politici inclusi, devono fare i conti. Nel 1991 il CERN, Centro Europeo di Ricerca Nucleare, annuncia la nascita del World Wide Web. Un anno dopo, 1 milione di computer sono già connessi alla rete. Nel 1993 appare Mosaic, il primo browser pensato per il web. Nel 1996 sono 10 i milioni di computer connessi, 3 anni dopo 200 in tutto il mondo. nasce il fenomeno della musica scaricata da internet, nascono i file MP3, che consentono di archiviare un gran numero di canzoni su hard disk. Cambia il mercato discografico, nonostante i tentativi di alcune major e di alcune band di combattere il fenomeno dei download. Passano alla storia la lotta dei Metallica contro Napster e l'effimera vittoria del gruppo rock americano. So close, no matter how far, it couldn't be much more from the heart, forever trusting who we are, and nothing else matters. Never care for what they do, never care for what they know. The office on which I'm about to enter. So help me God. So help me God. And I know you will, my friend. Thank you, Mr. Justice. Quando nel 1992 Clinton e Gore vengono eletti, sono i più giovani di sempre ad aver guidato gli Stati Uniti. 45 anni il primo, 44 il secondo. I due verranno rieletti nel 1996. Negli 8 anni dell'amministrazione Clinton, Gore, coinvolto in tutte le principali decisioni del presidente, insiste particolarmente sui temi legati all'ambiente, favorisce la nascita del protocollo di Kyoto, si batte per una diffusione capillare di internet, per lo sviluppo della tecnologia, per l'alfabetizzazione informatica delle nuove generazioni. Naturale che nel 2000, per la nuova tornata elettorale, i democratici scelgano lui per la corsa alla Casa Bianca. Dopo aver vinto le primarie, Gore affronta George W. Bush. E abbiamo sentito prima come è andata a finire. Gli autorevoli scienziati, con cui è un mio grande onore condividere questo premio, hanno dispiegato davanti a noi la scelta tra due futuri differenti. Una scelta che riecheggia nelle mie orecchie le parole dell'antico profeta. Ti ho messo davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza. Noi, la specie umana, siamo di fronte a un'emergenza planetaria, una minaccia alla sopravvivenza della nostra civiltà. C'è tuttavia una notizia di speranza. Abbiamo la capacità di risolvere questa crisi e di evitare il peggio, anche se non del tutto, se agiamo in modo coraggioso, deciso e rapido. Siamo tornati ad Oslo, il 10 dicembre 2007. Il premio Nobel per la pace ad Al Gore, in condivisione con gli scienziati del gruppo intergovernativo sul mutamento climatico. A questo premio, l'ex vicepresidente americano arriva attraverso una serie di battaglie condotte in nome del rispetto dell'ambiente e di una sensibilizzazione globale ai rischi dei cambiamenti ambientali. Per farlo, si è servito dei media e della tecnologia. Sempre. Così, il 4 maggio del 2004, ha fondato il network televisivo Current TV, un canale interattivo pensato per un pubblico giovane. Nel 2005 diventa Senior Advisor di Google. Nel 2006 gira Una scomoda verità, documentario basato su una straordinaria presentazione multimediale che Gore da anni porta in giro per il mondo per parlare alla gente dei problemi ambientali. Gore è il protagonista. Il documentario va a Cannes e ottiene un successo insperato. È la nostra unica casa. E in gioco c'è questo: la nostra capacità di vivere sul pianeta Terra. Il 2007 è un anno d'oro. Il 7 luglio ha organizzato un grande concerto transnazionale, il Live Earth, che vede artisti esibirsi in tutto il mondo in nome del rispetto dell'ambiente. Al termine dello stesso anno, il premio Nobel. Tra il pubblico che lo acclama ad Oslo c'è un amico, un uomo che ha inciso in maniera determinante sulla seconda vita di Al Gore. Un amico che era presente anche a Los Angeles pochi mesi prima, quando Una scomoda verità vince 2 Oscar, quello per il miglior documentario e quello per la miglior canzone, I Need to Wake Up, di Melissa Etheridge. Scopriremo chi è questo amico tra poco, a Destini Incrociati. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to wake up, I need to change, I need to shake up, I need to speak out. Destini incrociati. Oslo, 10 dicembre 2007. Il premio Nobel per la pace viene assegnato ad Al Gore, un politico americano che dopo la delusione per le presidenziali del 2000 perse sul filo di lana è diventato uno dei più importanti attivisti del mondo. Ad osservarlo quella sera, tra il pubblico di Oslo, un grande amico, Steve Jobs. Steve Jobs. Al si è donato anima e corpo, dedicando buona parte della sua vita durante gli anni passati nel mettere in guardia ed educare tutti noi sui problemi che derivano dalle mutazioni del clima. Trabocchiamo di orgoglio per Al, a fronte di questo storico riconoscimento del suo contributo a questa causa. Queste parole si trovano niente meno che sulla homepage di Apple il giorno dopo l'assegnazione del Nobel a Gore. Qual è il legame tra Jobs e Gore? Cosa ha a che fare Gore con la società di Cupertino? Andiamo a scoprirlo insieme, iniziando a svelare chi è Steve Jobs. Stephen Paul Jobs nasce a Green Bay il 24 febbraio del 1955. I suoi genitori naturali lo danno in adozione appena nato a Paul e Clara Jobs. Dopo il diploma, Steve si iscrive al Reed College di Portland, ma abbandona presto il corso di studi. Si forma da autodidatta, continuando a frequentare alcuni corsi del college e vivendo in maniera, diciamo, un po' improvvisata per qualche tempo. Quando mollai il college, potei smettere di seguire corsi che non mi interessavano per dedicarmi solo a quelli che mi piacevano. Certo, non avevo più una camera nel dormitorio, ero costretto a dormire sul pavimento delle camere dei miei amici. Riportavo al venditore le bottiglie di Coca-Cola per avere i 10 centesimi per comprarmi un pasto e facevo più di 10 chilometri la domenica sera per andare al tempio Hare Krishna a fare l'unico pasto decente della settimana. Era meraviglioso. Dopo l'esperienza del college, vissuta in maniera sicuramente originale, Steve, già grande appassionato e conoscitore dell'informatica, trova lavoro all'Atari. È qui che conosce Steve Wozniak, un altro abile programmatore, con il quale nel 1976 fonda la Apple Computer. Woz e io fondammo la Apple nel garage dei miei genitori, quando avevamo 20 anni. Abbiamo lavorato duro e in 10 anni la Apple è diventata, da un'azienda con noi due e un garage, una società da 2 miliardi di dollari con 4.000 dipendenti. Avevamo appena creato il nostro miglior prodotto, il Macintosh, un anno prima. Avevo 30 anni e fui licenziato. Il 24 gennaio 1984, infatti, la Apple immette sul mercato il Macintosh, un nuovo computer destinato a rivoluzionare il mondo dell'informatica. Per l'occasione, il regista Ridley Scott gira uno straordinario spot che viene mandato in onda la notte del Super Bowl, facendo capire come Apple fosse un marchio che avrebbe lasciato il segno anche nell'ambito delle strategie di marketing. On January 24, Apple Computer will introduce Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Nel 1984, grazie alla creatività di Jobs e Wozniak, la Apple innesta nell'informatica concetti allora sconosciuti come desktop, icone, menu a tendina, finestra. Il risultato eccezionale sul profilo del marketing porta al paradosso. Nel 1985, Jobs, per divergenze con l'amministratore delegato da lui stesso designato, viene estromesso dalla società. Costretto nuovamente a reinventarsi, sceglie il cinema. Prova, prova, così va meglio? Bene, mi sentite tutti? Anche voi lassù in piccionaia, mi sentite? Nel 1986, infatti, Jobs rileva la Pixar, una costola della Lucasfilm di George Lucas. Inizialmente la società si occupa di graphical computer dal punto di vista software e hardware. Poi l'intuizione, usare la computer grafica per costruire storie. Jobs stringe con la Disney un accordo ben preciso. Entrambe le compagnie hanno siglato un affare da 10 anni e 5 film, nei quali le due società si dividono i costi di produzione e i profitti. Nel 1996 il primo lungometraggio, Toy Story, un piccolo gioiello che in Italia viene musicato da Riccardo Cocciante. Hai un amico in me, un grande amico in me. Se la strada non è dritta, ci sono 2000 pericoli. Ti basti solo ricordare che c'è un grande amico in me, di più di un amico in me. Jobs nel frattempo porta avanti una sua software house, la Next, che dal punto di vista finanziario non va proprio benissimo, ma da quello dello sviluppo tecnologico invece riesce a elaborare un sistema operativo all'avanguardia. Così all'avanguardia che il destino se ne accorge e serve a Jobs la rivincita su un piatto d'argento. Alla fine degli anni 90 la Apple è in crisi economica. Il sistema operativo, il Mac OS 9, è obsoleto. Jobs viene richiamato al comando con la sua Next, con il compito di sfornare il nuovo sistema operativo. All'epoca non me ne accorsi, ma il mio licenziamento dalla Apple fu la cosa migliore che poteva capitarmi. Il peso del successo fu rimpiazzato dall'illuminazione di essere un principiante ancora una volta, con molta meno sicurezza su tutto. Questo mi liberò e mi consentì di entrare in uno dei periodi più creativi della mia vita. Durante i 5 anni successivi fondai una società di nome Next e una di nome Pixar e mi innamorai di una meravigliosa donna che sarebbe poi diventata mia moglie. Pixar finì per creare il primo film animato al computer della storia, Toy Story, ed è ora lo studio di animazione più famoso al mondo. Apple, con una mossa notevole, acquisì Next e io tornai all'azienda. La tecnologia che sviluppo con Next è oggi nel cuore di ogni computer Apple. La rinascita di Apple passa attraverso l'uscita del Mac OS X, il sistema operativo più avanzato del mondo, la presentazione dell'iMac, un computer all-in-one destinato a frantumare ogni record di vendite, e soprattutto l'iPod, un lettore portatile di musica che legge i file MP3 e sfrutta proprio la rivoluzione di Internet che l'amministrazione Clinton-Gore ha favorito. Sono sicurissimo che niente di tutto ciò sarebbe accaduto se non fossi stato licenziato dalla Apple. È stato un boccone amarissimo da buttar giù, ma era la medicina di cui avevo bisogno. A volte la vita ti colpisce in testa come un mattone. Non bisogna perdere la fiducia. Il fatturato di Apple comincia a crescere esponenzialmente. Jobs diventa uno dei più importanti uomini d'affari del pianeta. Il marchio con la mela morsicata diventa un simbolo, un'icona, un esempio di stile che fissa nuovi limiti nel rapporto tra la marca e i clienti, più simili a dei fan scatenati e fedelissimi. Rimane un dettaglio da sistemare. Apple, tra i colossi informatici americani, è quello meno attento all'ambiente. Si attira le ire di Greenpeace, che lancia addirittura una campagna mirata, Green My Apple, per sollecitare una svolta verde della casa di Cupertino. Non è una macchia da poco per un'azienda che sbandiera il rispetto per i valori della trasparenza e della sostenibilità come i propri fiori all'occhiello. La svolta arriva e ha il nome di Al Gore. Tra poco, a Destini Incrociati. Destini incrociati. Oggi a Destini incrociati siamo partiti da Oslo, Nel palazzo del municipio, il 10 dicembre del 2007, è in corso l'assegnazione del premio Nobel per la pace ad Al Gore, ex vicepresidente americano, candidato democratico nelle controverse elezioni del 2000 vinte da George Bush, e infaticabile attivista per l'ambiente e la sensibilizzazione ai problemi legati al surriscaldamento globale. In platea, ad applaudirlo, l'amico Steve Jobs. Abbiamo raccontato le loro storie. Vediamo ora in che modo si intrecciano. Da sempre, Al Gore è stato convinto che la tecnologia, se usata intelligentemente e messa a disposizione di tutti, possa migliorare la vita e il mondo. Per Gore è naturale diventare un utente Apple all'inizio del 2000, quando la casa di Cupertino, grazie a Jobs, inizia la propria riscossa. Ma Gore non è certo uno che si accontenta di avere un paio di iPod e qualche Mac con cui montare i suoi documentari. Così acquista delle azioni. Non si sa dove e come Steve e Al si conoscano. Si sa che Gore viene prontamente invitato da Jobs nel consiglio d'amministrazione. Al ha portato nella Apple tutta l'esperienza di chi ha lavorato nelle più importanti organizzazioni internazionali e un certo tipo di attenzione alle problematiche sociali. Siamo elettrizzati ed onorati perché ha scelto di collaborare con Apple. E accetta. Con un obiettivo. Steve e il suo team hanno svolto un incredibile lavoro riportando la Apple ai vertici dell'industria mondiale dei computer. Mi ha impressionato il sistema macOS X e l'attenzione della società al mondo open source. Sono molto contento di poter lavorare con loro. C'è ancora un po' di lavoro da fare in una direzione ben precisa, però. L'Apple di Jobs, infatti, nella sua riscossa, ha tralasciato un aspetto fondamentale: l'attenzione all'ambiente. Gli attacchi di Greenpeace e di molti ambientalisti ledono l'immagine della mela morsicata. L'intervento di Gore risulta determinante. L'amicizia tra Jobs e Gore, lo straordinario carisma dell'ex vicepresidente americano, segna un netto cambio di direzione. Penso che ogni società dovrebbe prestare attenzione all'impatto che i suoi prodotti hanno sull'ambiente. Tanti piccoli dettagli su larga scala possono avere effetti enormi. Gore fa propri i principi di Green My Apple, la campagna lanciata da Greenpeace nel 2006 per smuovere l'azienda a ridurre il suo impatto sull'ambiente. La mela diventa sempre più verde e accetta di lanciare sul proprio sito una sezione dedicata dove fornisce un'esaustiva documentazione comunicando l'impatto ambientale di ogni singolo prodotto della propria gamma. È l'inizio di un asse, quello Gore Jobs, destinato ad acquisire un'importanza cruciale nella società americana. Uno dei termini che viene più spesso avvicinato alla società americana è lobby. Con questo termine vengono indicati gruppi di pressione, quegli insiemi di persone che, animati da uno scopo comune, cercano di modificare le istituzioni esercitando pressione sull'opinione pubblica. Il termine è di solito inteso con accezione negativa. Ci si riferisce spesso alla lobby del fumo, ad esempio, o a quella dell'alcol o delle armi. L'incrocio tra Jobs e Gore determina la nascita di una vera e propria lobby dell'ambiente, un gruppo di pressione che agisce in nome degli interessi collettivi, del bene comune e anche, naturalmente, per il proprio tornaconto. Così la svolta green di Apple incide in maniera dirompente sul fatturato, aumentato in 10 anni di quasi il 2000%. Siamo lieti di annunciare che questo nuovo prodotto è un prodotto pienamente green. La lunga durata della batteria, infatti, e i materiali stessi con cui è costruito rendono assolutamente esiguo l'impatto che esso ha sull'ambiente. Nel 2008, il tandem Jobs-Gore, la loro lobby ambientalista, fa sentire la propria voce attraverso un altro canale, il cinema. L'altro colosso di Jobs, la Pixar, produce Wall-E, il nono lungometraggio della sua casa cinematografica. Wall-E racconta di un pianeta Terra disabitato, su cui lo smaltimento dei rifiuti è diventato impossibile. Nel film, gli uomini devono prendere coscienza dei problemi causati dai propri comportamenti scellerati per potersi riappropriare del pianeta. Praticamente una summa dei temi cari a Gore, espressi attraverso una delle società di Jobs, con continui rimandi ad oggetti, simboli, feticci del mondo Apple. Penso che il cinema, anche il cinema d'intrattenimento, possa avere un fine educativo, possa suggerirci un modo per ottenere un mondo migliore. Dobbiamo usare tutti i mezzi a nostra disposizione per sensibilizzare l'opinione pubblica. È una partita che si gioca oggi, ma da cui dipende il nostro domani. Insomma, l'incrocio, il sodalizio tra Jobs e Gore, funziona da cassa di risonanza per le battaglie di entrambi. Un Apple più green ha cambiato l'immagine della casa di Cupertino, spingendo il fatturato alle stelle e rendendo ancora più solido il marchio della mela morsicata. Dall'altro lato, Gore trova mezzi e canali per dar voce al proprio messaggio. Un messaggio che arriva forte e chiaro in tutto il mondo, fino ad Oslo, e che ha bisogno, per diventare realtà, dell'impegno di tutte le potenze dell'economia. Let me show you. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.